Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:06, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. Parma è sorpresa, Parma ovviamente si interroga, è colpita e stupita, Parma ma anche l'Italia, insomma, ma anche tutti noi, vuole capire cosa è successo qualche giorno fa durante un fermo operato da alcuni agenti della Polizia Municipale. In un'operazione antidroga è stato prima arrestato uno spacciatore e poi è stato fermato anche un ragazzo, Emmanuel Bansu Foster. Gli italiani hanno imparato a conoscerne la faccia tumefatta, un occhio pesto, 22 anni, origine del Ghana, che ha denunciato qualche giorno dopo: mi hanno picchiato, mi hanno denudato, mi hanno insultato più volte al comando della Polizia Municipale, quindi mi hanno rilasciato alla fine consegnandomi una busta nella quale c'erano i miei effetti personali e sulla quale c'era scritto Emmanuel Negro. Per la Polizia Municipale la versione opposta, un arresto movimentato, questo sì, il ragazzo che scappa, la colluttazione, cade, probabilmente si ferisce da solo, alla faccia, e poi ha scritto lui, nessuno di noi ha scritto sulla busta quel negro, l'avrà scritto sicuramente lui. Insomma, ci sono le inchieste in corso. Il ministro dell'Interno Maroni ieri è intervenuto e ha detto le accuse sicuramente sono gravissime, bisogna vedersi chiaro, bisogna vedere le due versioni, vuole sapere tutto, e il sindaco di Parma dice: se ci sono state delle colpe di qualcuno, di chiunque, questo qualcuno pagherà certamente. Sullo sfondo le polemiche anche che sono state e si leggono sui giornali su la cosiddetta modello sicurezza che torna sotto la lente d'ingrandimento e sotto le polemiche, a dire forse questi sono gli effetti, dicono molti giornali, devo dire soprattutto giornali di sinistra, della richiesta continua di sicurezza. Un titolo su tutti, ieri il Manifesto campeggiava la foto di Emmanuel con il titolo Parma letale. Saluto l'assessore alla sicurezza di Parma, Costantino Monteverdi. Buongiorno assessore, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno. Così come voglio salutare Luigi Manconi, che è un sociologo, è stato sottosegretario alla giustizia. Benvenuto Manconi, buongiorno. Buongiorno. E, tra poco ci aggiungerà anche un altro ospite, quello che è successo a Parma, le versioni contrastanti, le polemiche che ne sono scaturite, anche oggi ovviamente sui giornali. Assessore Monteverdi, voi del comune, lei, il sindaco, avete sentito per caso la famiglia? Avete intenzione di sentire la famiglia del ragazzo? Ma probabilmente sentiremo anche la famiglia del ragazzo. Questo è un caso che ci è capitato tra capo e collo in maniera incredibile. Io però, prima di parlare del caso, se lei mi consente, gradirei chiarire subito una cosa. È una normalissima operazione di polizia municipale fatta su richiesta dei cittadini che frequentano, e delle mamme, degli anziani che frequentano il parco Eridania, che è il parco dove è nata la prima fabbrica Barilla, quindi abbastanza in centro a Parma, vicino ad una scuola molto importante con palestra eccetera. Ci sono state più segnalazioni di spaccio di droga, con lamentele che gliele dico così proprio. Le posso immaginare, insomma, come tutte queste situazioni. I vigili vanno a fare le multe di divieto di sosta e qui spacciano la droga a cielo aperto, quindi le lamentele erano forti, molto forti. È chiaro che su queste segnalazioni la Polizia Municipale è intervenuta, però detto questo, mi consenta di dire con chiarezza, non è un'operazione fatta né per il decreto Maroni, né per le ordinanze, né per la carta della sicurezza, né per tutte le situazioni che si sono e si stanno muovendo con l'intento di dare maggior certezza e maggior sicurezza o benessere di vita ai cittadini. È un'operazione normalissima che sarebbe stata fatta un anno fa, 6 mesi fa o un giorno fa, non ha importanza. abbastanza. Perché le chiedo, però, è stata fatta dai vigili urbani, la polizia municipale, sì. C'è questo nucleo di pronto intervento, cioè nell'immaginario collettivo, appunto, lei ha detto fanno le multe e qua si spaccia, però la polizia municipale, insomma, è intesa più che altro questo. Cos'è questo nucleo di pronto intervento? La polizia municipale ha un nucleo antinfortunistico, ha un nucleo urbanistico e ha un nucleo commercio. Inoltre c'è il nucleo pronto intervento, che è il nucleo che diciamo dovrebbe essere quello che arriva il più velocemente possibile sulla criticità quando questa viene denunciata. Il nucleo pronto intervento è quello che racchiude maggior esperienze, che fa una formazione specifica oltre che la formazione generale, ed è costituito da agenti e ispettori normalmente che hanno una certa esperienza, non i più giovani, tanto per chiarire. Quindi questa, ribadisco, su queste segnalazioni è intervenuta la polizia municipale, che ha verificato che erano segnalazioni vere, reali, e poi sono intervenuti, tant'è vero che hanno arrestato uno spacciatore, sì, hanno identificato un cliente minorenne più altri tre ragazzi parmigiani italiani che facevano da palo, che hanno tranquillamente ammesso. Le chiedo, assessore, ci saranno le inchieste, per carità, però sì, so che lei, leggo da Repubblica, ieri si è chiuso a lungo anche con tutti i responsabili della polizia municipale, ha parlato, secondo Repubblica l'ha detto, coraggio, siamo nell'occhio del ciclone ma abbiamo fatto il nostro dovere, vedrete che si chiarirà tutto. Lei esclude o si sente di poter dire che secondo lei non è successo nulla, o meglio la versione è stata quella del fermo movimentato, il ragazzo è caduto, oppure insomma quelle immagini di quell'occhio pesto può far suscitare l'idea che vabbè è capitato, no, qualcuno si è lasciato magari prendere la mano sbagliando. Assolutamente non dico che non è successo nulla, sarebbe impossibile dirlo, dico ho fiducia nella polizia municipale, ho fiducia in quei ragazzi, in quegli uomini, in quelle donne che tutti i giorni dei 365 giorni all'anno lavorano per la sicurezza, la qualità della vita dei cittadini. Poi quello che è successo, io non c'ero, non ho ordinato l'intervento, non ho fatto nulla per attivare la situazione, francamente anch'io ho chiesto, e il sindaco ha convenuto, di aprire un'inchiesta interna, perché francamente non so cos'è successo. È chiaro che qualcosa è successo, anche perché un agente con 20 giorni che ieri si è aggravato e un altro con un polso distorto e 3 giorni e un ragazzo con una prognosi appunto Emanuele di 2 giorni, non credo si siano stretti la mano quando si sono incontrati, probabilmente c'è stata concitazione, è stato un fermo movimentato, è pacifico che gli agenti non hanno fatto niente di più che chiedere i documenti come fanno in qualunque situazione quando devono identificare una persona. Se Le accuse vengono dopo, cioè sul fatto mi hanno denudato, mi hanno poi quella scritta effettivamente sì, esatto. È una cosa brutta, è una allora, brutta se storia. Queste accuse fossero vere sicuramente sono molto gravi, però io non mi sento oggi di dire ha ragione Manuel o hanno ragione gli agenti della polizia municipale. Io dico che è stata aperta un'inchiesta interna, tra l'altro da ieri è entrato in servizio il nuovo comandante, quindi è un'inchiesta sicuramente molto seria perché è stata affidata a lui, e è stata aperta un'inchiesta da parte della magistratura. Io credo che alla fine uscirà la verità. È chiaro che sulla verità noi dovremo riflettere e qualcuno dovrà pagare. E lei un'idea di questa verità non se l'è già fatta? Parlando almeno a lungo con una delle parti in causa, il comando dei vigili. Ma io sento che loro dicono che escludono tassativamente qualunque cosa che è scritta sull'accusa. Perlomeno le accuse che ci sono sui giornali, francamente. Quindi che è stato manganellato, non hanno i manganelli, cioè ci sono manganellato, credo, io non di non averlo letto, si parlava di un pugno, c'è scritto con chiarezza sul sito di Repubblica Online Parma e su tutti i giornali, che poi è stato quello che ha scatenato tutta la questione. Per cui le dico, ci sono delle cose che sono inverosimili, Ma io come faccio ad escludere che sia successo comunque qualcosa, visto che ci sono 3 feriti? Io non lo posso escludere, allora mi affido ad un'inchiesta interna e voglio vederci chiaro in tutti i sensi. Questo no, sicuramente. Assessore, no, rimanga con noi. Io intanto voglio salutare il senatore Filippo Saltamartini, buongiorno senatore. Buongiorno. Popolo della Libertà, ma tra l'altro una vita nella Polizia di Stato, è stato anche segretario del SAP, il sindacato autonomo di polizia, oggi è senatore, quindi mi interessa anche poi l'aspetto politico. Prima vorrei andare anche però da Luigi Manconi. Ieri Manconi su Repubblica, Curzio Maltese, uno dei commenti più duri registrati, ha scritto: delegare ai sindaci una parte di potere ha significato in questi mesi assistere a un delirio di norme incivili al grido di tolleranza zero. Per quel che riguarda anche Parma, una serie di ordinanze, con cui poi parleremo magari con l'assessore, che hanno fatto segnalare nel piccolo il grande sport nazionale anche a Parma, la caccia al povero Cristo. Secondo lei c'entra anche questo in questa vicenda? L'assessore lo esclude categoricamente. Manconi. Sono due questioni parallele. Non so quale relazione stretta abbiano in questa vicenda, come è stato documentato dalla stampa nazionale, dal Sole 24 Ore in primo luogo, con numerosi e meticolosi articoli, una pioggia di ordinanze, non certo nella sola Parma, ma in tutta Italia, su tutto il territorio nazionale, ha previsto una serie di veti e divieti che certamente in qualche situazione hanno sfiorato il ridicolo, in altre hanno legittimato scelte pubbliche, diciamo, di tipo notevolmente aggressivo e discriminatorio, non necessariamente nei confronti di cittadini stranieri. Ma ripeto, non so se c'è questo sfondo nella vicenda di Parma. Io devo dire immediatamente di aver apprezzato la prudenza con la quale si è espresso l'assessore. Credo che sia un atteggiamento positivo il suo, se posso permettermi. L'unica cosa che mi sento davvero di segnalare come un elemento negativo è la risposta alla sua prima domanda. Lei ha chiesto se l'amministrazione aveva avuto un incontro con la famiglia del giovane, e la risposta è stata pressoché negativa. Ecco, questo segnala una mancanza di sensibilità che a mio avviso rivela qualcos'altro: l'affanno con il quale ci si precipita a negare il fatto che possa essere accaduto un fatto di razzismo. Ecco, questo affanno io lo ritengo immotivato e pericoloso. Sia chiaro, su cosa si fonda il razzismo? Si fonda su un'equazione perversa, che è quella che attribuisce a un'intera categoria le responsabilità di un singolo. Allora, tutti i romeni sono stupratori. Se questo è il paradigma del razzismo, guai, dico guai, a pensare che tutti i vigili urbani di Parma possano essere tentati da pulsioni di aggressività e di violenza, o tantomeno pensare di poter dire di una città civilissima come Parma è una città razzista. Sì. Guai. No, però, ma per carità, se c'è un'icona, certo, di una, se mi chiedessero qual è una delle città che uno vede come icona della vivibilità, certo, eccetera, io, certo, direi tra le prime 3 sicuramente Parma. Benissimo. Voglio dire, no? Però guai a rovesciare il discorso e a voler escludere quello che oggi è sotto gli occhi di tutti. Certo, in un no, paese questo come l'Italia si manifestano tendenze xenofobe, si manifestano pulsioni di intolleranza, vi sono anche frequenti e crescenti atti di aperto razzismo. Esaminiamolo uno alla volta, gli atti in questione, consideriamo se in quella vicenda che stiamo prendendo in esame c'è, oltre all'esercizio della violenza o della discriminazione, l'aggravante di questa volontà di discriminazione nei confronti di un cittadino straniero. Allora, è secondo me sì, prima di andare dal senatore Saltamartini, assessore, se vuole replicare sul punto ancora sulla sicurezza, però io le giro anche una mail che ci scrive Roberta Parmigiana Doc. Ci scrive: devo dire che non è il primo caso che succede a Parma e penso che i vigili siano diventati i nuovi sceriffi, tra virgolette, a cui sono affidati tanti poteri da sentirsi liberi di fare qualsiasi cosa. Cioè, questa ricerca di sicurezza, questo scrive Roberta di Parma, questa ricerca di sicurezza secondo lei non rischia di creare quel clima di legittimare un maggiore intervento di duro? Direi di no, però voglio replicare al senatore Manconi, in quanto noi abbiamo già parlato con il console ghanese, abbiamo parlato con il rappresentante ghanese della città di Parma, comunità tra l'altro che non ha mai creato problemi nella città, devo riconoscerlo con assoluta tranquillità. Perché? Perché andare dal rappresentante ghanese e la famiglia che l'avevate lì? Per evitare che sì, andremo sicuramente anche dalla famiglia col rappresentante della comunità ghanese, questo è quello che ci siamo ripromessi, però c'è anche un'indagine in corso e bisogna anche stare attenti a questi incontri. Io ad esempio vi dico, il nuovo comandante ha imposto il silenzio alla polizia municipale perché c'è un'indagine della magistratura, quindi ci sono anche delle cose che vanno fatte con una certa correttezza e sicuramente in un modo abbastanza corretto. Torno alla domanda della mail, no, io escludo che ci siano dei nuovi sceriffi sul territorio, non è il caso di Parma che è una città aperta, europea, non è una città razzista, abbiamo una cultura di accoglienza che è riconosciuta da tutti. Certamente è successo un fatto dove ci sono 3 feriti. Io però voglio porre l'attenzione anche del senatore Manconi. Il ragazzo è su tutti i giornali, dei 2 agenti della polizia municipale non ne parla nessuno. Mi sarei aspettato per correttezza di stampa la stessa enfasi nella situazione. Oppure consideriamo gli agenti di polizia municipale dei punchbowl su cui ci sfoghiamo quando ne abbiamo voglia, questo è il problema. Poi non ci sono sceriffi, non c'è il nuovo clima, noi abbiamo bisogno di dare sicurezza ai nostri cittadini perché da questo ne dipende la qualità della vita. Quando la gente dice io alla sera non esco di casa perché ho paura, vuol dire che ha cambiato stile di vita causato da tutti questi nuovi problemi che sono nati, che non sono solo dell'immigrazione, sia chiaro, che sono dovuti anche a comportamenti nazionali nostri, veri e propri. Per cui c'è una nuova attenzione a questa situazione, perché la gente ha bisogno di serenità, e su questo noi ci stiamo cimentando, ma non abbiamo nuovi sceriffi, non abbiamo fatto il giro di vite alla polizia municipale. Ci sono state tranquillamente il loro lavoro. Sì, ci sono state tante ordinanze, ma a questo arriviamo. Siccome lei ci deve lasciare alle 9:30, prima mi lascia andare però un attimo dal senatore Saltamartini. Senatore Saltamartini, lei che tra l'altro ha fatto una vita in polizia, che ne pensa del fatto che, per esempio, c'è questo nucleo di pronto intervento in polizia municipale, quindi insomma quelli che noi identifichiamo come vigili urbani a Parma. La stupisce, la colpisce, voglio dire, che c'è la stessa preparazione, per esempio? Ma vedi, io credo che il dato di fondo di tutto quello che si sta scrivendo e si sta discutendo sia concettualmente sbagliato, nel senso che i vigili urbani del nostro paese, non per le leggi fatte in questa legislatura dal governo Berlusconi, ma da sempre, sono agenti di polizia giudiziaria, cioè hanno il compito e l'obbligo di acquisire notizie di reato e di riferire all'autorità giudiziaria, quindi loro hanno agito in un quadro operativo in cui c'era un reato che era lo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopodiché in questo quadro operativo naturalmente sono state compiute tutta una serie di operazioni, quali l'identificazione, la perquisizione, l'accompagnamento in ufficio, operazioni entro cui bisognerà verificare se ci sono stati degli abusi. Però voglio anche dire, con la stessa tra virgolette enfasi che ha usato il senatore Manconi, che saluto, che l'Italia è un vero Stato di diritto, cioè il controllo di legalità della magistratura nei riguardi delle forze dell'ordine è un controllo molto rigoroso. E quindi noi dobbiamo avere la certezza e la fiducia che l'operazione di polizia sarà vagliata dall'autorità giudiziaria col massimo scrupolo e la massima attenzione. E la seconda considerazione è che tutte le forze di polizia, io mi sento di dirlo e di affermarlo in modo, oserei dire, categorico, noi non siamo legati a un giuramento, alla Costituzione, a un paese democratico, avanzato, cioè l'idea che si possa pensare che le forze di polizia possano agire contro una persona semplicemente perché ha un colore diverso, credo che sia più nella fantascienza ideologica o politica. E le dico anche, avendo lasciato la divisa da poco, che molto spesso quando succedono queste cose, a me è apparso spesso che invece atti di razzismo fossero compiuti veramente nei riguardi delle forze dell'ordine. Io ho vissuto l'esperienza di chi ci lanciava le monetine, di chi lanciava slogan contro di noi, non voglio arrivare a Pasolini, sì. Ma le voglio dire, e chiudo e concludo, le voglio dire con grande sincerità, dobbiamo essere più sereni a valutare questi fatti, non dobbiamo lanciare questi invettivi nei riguardi delle forze dell'ordine che per pochi spiccioli rischiano non solo la vita, ma mi consenta anche la stessa avvio di un'inchiesta giudiziaria con un'incriminazione potrà avere delle conseguenze pesantissime. Beh, però sul futuro lavorativo. Sì, però c'è una denuncia, c'è un occhio pesto, cioè ci mancherebbe che non c'è una denuncia, sì, che non si facesse un'indagine, questo sì, almeno voglio dire, per accertare quello che è successo. C'è l'obbligo dell'azione penale, quindi voglio dire, nessuno può impedire. Per ora sì. Ci sarà. Per ora sì. Allora l'assessore ci deve salutare, però assessore, un punto conclusivo prima che lei ci saluti. Quella scritta su quella busta, Emanuel Negri. Anche qui ci sarà il ragazzo, tra l'altro ha detto fate una perizia calligrafica, se voi dite lo diciamo anche noi, ecco, esatto, se lei... lo diciamo anche noi, anche perché lui dice se l'avessi scritta, ecco, io avrei scritto il mio nome Emmanuel con due M, non Emmanuel con uno, ma, come... però allora ci sono tante incongruenze nei fatti riportati e secondo me anche nella denuncia, proprio per questo noi abbiamo aperto un'inchiesta interna, eccetera. Se fosse vera la scritta apposta dalla Polizia Municipale sarebbe veramente grave, perché allora dovremmo ripensare a certe situazioni. Io mi auguro che il magistrato ordini una perizia calligrafica, ho sentito dire che è già stato fatto, ma non sono certo perché non ho competenza in magistratura, certamente, e mi auguro che venga chiarita soprattutto questa questione, perché credo che sia la cosa che può dare più fastidio, almeno a noi parmigiani sarebbe la cosa che dà più fastidio, molto francamente, perché questa non è una città che ha rapporti con oltre 120 etnie, e stiamo lavorando moltissimo sotto tutti i profili del sociale, dell'accoglienza in particolare, di conseguenza questo sarebbe una cosa che ci dà fastidio veramente anche a noi, forse proprio per questo che abbiamo voluto l'inchiesta, perché vede, quando uno rifiuta di dare i documenti e ci salta fuori un inseguimento, una concitazione eccetera, un occhio nero, un polso distorto possono succedere. Anche se non dovrebbe essere la norma, ma possono succedere, non lo possiamo negare, perché è fisiologico che può succedere. Quando poi saltano fuori accuse di razzismo, una scritta di questo genere, sono cose fastidiose che la cultura della città di Parma non può accettare, e qui noi siamo disponibili a fare di tutto perché ci sia chiarezza. Voglio dire a tutte le comunità di Parma, in particolare la comunità ghanese di Emanuel, che non c'è niente contro queste comunità e che sono sempre apprezzate per il lavoro che fanno in città, sì. E cercheremo di incontrare anche la famiglia di Emanuel per esprimergli la solidarietà sul fatto, ma ben fermi, ben chiari e ben decisi ad appurare la verità. Questo chiaro, sì, però che sulla verità qualcuno dovrà... Qualcuno ha mentito e qualcuno mente, su esatto. Questo è certo, dopodiché lo faccia al più presto, lo faccia lei come assessore o come sindaco di incontrarli, perché io questo punto che lei dice sei un'inchiesta in corso, e quindi che c'entra? Voglio dire, una telefonata di scambiarvi due chiacchiere, questo non può inficiare nulla nell'indagine. Detto questo, io assessore la ringrazio per essere stato con noi. La seconda parte di Viva Voce alle 9:34 minuti, il caso di Parma, insomma le due versioni del ragazzo ghanese che dice mi hanno picchiato, mi hanno denudato i vigili urbani, la polizia municipale, mi hanno insultato, e questa busta finale Emanuel Negro. Abbiamo sentito l'assessore Monteverdi, due ascoltatori che ci hanno chiamato all'800 24 0024. Gianni dalla provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno. Di che? Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Vorrei dire solo questo, sono un ex ufficiale dei Carabinieri e mi sentivo dire questo, che la Polizia Municipale, ex vigili urbani, sono bravissimi nella gestione del traffico, nella rilevazione di incidenti e tutte queste cose, che rientrino un attimino un po' nei loro alvei, perché cioè io ho una concezione più, come dire, statuale anche dell'esercizio, sia dell'azione penale, che li vedo come trasformarsi in un manipolo di discherani a disposizione del borsettino locale che li adopera per fini di raccolta di consenso, giocando sulla sensazione di sicurezza nelle città, perché chi parla di mancanza di sicurezza in Italia non ha girato all'estero, non conosce come si possa vivere a Parigi, Londra, di come sia di gran lunga più sicura l'Italia nella sostanza. Invece giocano, soprattutto a livello locale, su questa sensazione di insicurezza che è ingiustificata nella maggior parte dei casi. Quindi questo vorrei dire. No, insomma, grazie per il suo intervento. Un passo indietro da parte della Polizia Giudiziaria, che vedo come un manipolo a disposizione del borsettino locale, che adopera la Polizia Municipale per la ricerca del consenso su base locale. Va bene, grazie Gianni. Senatore Manconi, secondo lei sta tornando il razzismo? Qualcuno dice allarme razzismo in Italia, stiamo attenti perché stanno tornando. Senta, mi permette di fare un passo indietro molto pertinente però. Guardi, lei giustamente ha posto sin dall'inizio, e l'ultimo ascoltatore ha precisato con chiarezza, il problema fondamentale in questo caso, ovvero il ruolo della Polizia Municipale. Qui non è il problema del fatto che questo ruolo preveda anche i compiti svolti in questa circostanza o non li preveda, cioè il problema non riguarda la correttezza istituzionale, la pertinenza giuridica della formazione di quel nucleo di cui lei ha chiesto all'assessore. Il problema è se quel nucleo deve essere incaricato di fare operazioni squisitamente di polizia, e per giunta, come nel caso dell'intervento contro lo spaccio, operazioni che richiedono un notevole livello di competenza, di capacità di relazione, di intervento, di scelta delle opportunità tecniche di tale intervento. Ecco, questo mi sembra il punto cruciale, ovvero se si decide, io dubito dell'opportunità, ma comunque se le amministrazioni comunali decidono che i vigili urbani siano utilizzati in questi compiti, diciamo, di ordine pubblico e di diretta operazione di polizia, qual è la formazione, la preparazione, la capacità di controllo e di autocontrollo che questi nuclei sanno esercitare? E ancora più in generale, la Polizia e i Carabinieri da anni, sia pure in una misura infinitamente inferiore a ciò che si richiederebbe, hanno partecipato a corsi di formazione sul rapporto con i cittadini stranieri, questione delicatissima che riguarda le polizie di tutto il mondo e che tutto il mondo richiede risorse, investimenti, istruzione, formazione. Ecco, questo delicatissimo problema del rapporto tra operatori di polizia e stranieri, questione, ripeto, delicatissima, come può essere assunta e svolta senza un'adeguata formazione? Non c'è forse questo anche dietro la vicenda di Parma? Ma su questo io infatti volevo, insisterò tra un attimo col senatore Saltamartini, perché di questo, insomma, parte della sua vita l'ha fatta proprio su questo campo. Prima un ascoltatore, Gianluigi dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io sono un ufficiale di polizia locale. E devo dire che quanto ha asserito attualmente il senatore, devo chiedergli di andare a vedere tutte le passate richieste inoltrate da parte del corpo della polizia municipale in generale al Senato, alla Camera, dove chiedevamo anche una specifica attuazione sulla nostra normativa. Noi siamo agenti ufficiali di polizia giudiziaria sul nostro territorio dal momento in cui prendiamo servizio e veniamo nominati, quindi da tempo immemore. Ora, le funzioni che ci sono state demandate da ogni regolamento, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché addirittura dai documenti di procedura penale, eccetera, ci investono di queste funzioni sul nostro territorio. Non possiamo esimerci da non compiere questi atti. Alcunché il senatore voglia, per sua cortesia, toglierci queste funzioni, allora ritorneremo a fare le funzioni come reclamate anche dal Presidente della Repubblica a tempo or sono, solo di polizia amministrativa. Va bene. Ora, tutti i tribunali, tutti i giudici ci demandano funzioni, perché sanno che l'attività della polizia locale è specifica sul territorio, conoscono le persone, sanno chi sono, sanno dove andarle a trovare, Non è vero che sul territorio noi non ci siamo, non siamo ancora la vecchia maniera di pensare alla polizia municipale come il vigile di campagna che va a dare solo la contravvenzione. Non è vero, basti pensare ai TSO, al recupero di cani, al salvataggio di persone. Noi abbiamo avuto qui un agente che ha salvato una signora che è caduta nel laghetto ghiacciato. Insomma, lei dice le qualifiche. Nessuno dice mai nulla. No, ma le qualifiche sono molto più ampie e vi vengono demandate più qualifiche, insomma, più ambiti di intervento. Grazie, Gianluigi. Senatore Saltamartini, devo dire, molta gente, tra l'altro, ci scrive dicendo qualche mail. Le voglio leggere, a dire: sto ascoltando la trasmissione, sarebbe interessante capire se i vigili che hanno fermato Emanuele erano in divisa o in borghese. Allora, secondo la ricostruzione erano in borghese, nel senso che questo nucleo pronto intervento proprio all'interno della Polizia Municipale di Parma è fatto da agenti che intervengono in borghese. D'altronde, se era un'operazione antidroga, insomma, presentarsi e cercare di fare degli appostamenti in divisa, insomma, si dà un po' nell'occhio. Erano in borghese e se si sono qualificati come agenti, questo dice, questa è la versione ovviamente della Polizia Municipale. Ovviamente c'è la versione poi del ragazzo che è scappato, forse lui dice: mi sono spaventato, ho visto queste due persone che mi seguivano, chissà chi erano, e insomma questo è successo poi il patatrac. Però lo chiedo a Manconi, perché è saltato un attimo la linea con Saltamartini. Manconi, è questo anche un altro aspetto interessante della questione, che qualcuno dice c'è una deriva nella richiesta di sicurezza che porta a questo? Beh, io... O si rischia di strumentalizzare anche questa cosa? No, aspetti, io come può immaginare, penso che ci sia e come questa deriva, e mi spiego semplicemente. Allora, se quotidianamente viene lanciato l'allarme sicurezza con toni palesemente eccessivi e non rispondenti ai dati di realtà relativi alla criminalità, se quotidianamente questo allarme sicurezza individua tenacemente, ostinatamente, come primo responsabile degli attentati alla sicurezza lo straniero, è fatale che intorno allo straniero si crei un clima di diffidenza che può diventare aggressività. Non sto dicendo ovviamente che l'Italia è un paese razzista, non lo è né più né meno che altri paesi democratici, è un paese in difficoltà, pieno di ansie collettive, dove il rapporto con lo straniero suscita fatica e dove bisogna essere estremamente attenti nel non sollecitare e canalizzare quelle ansie contro la figura dello straniero rappresentato come nemico, perché se lo straniero viene rappresentato come nemico, un giovane che fugge perché magari teme di essere vittima di un'aggressione diventa automaticamente un giovane che fugge in quanto colpevole, e se un giovane che fugge viene considerato colpevole, chi lo insegue, membro delle forze dell'ordine, è indotto a pensare che lo debba fermare ad ogni costo. Questa è la dinamica, non è una dinamica che rivela un complotto, una volontà di massacro. No, per carità, però lei dice... È qualcosa di molto preoccupante. Responsabilità massima della classe politica è controllare tutto ciò, non è incentivare la paura, ma è disinnescarla quella paura. Un'ascoltatrice, Cinzia da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma intervenivo sul tema. Io sono stata candidata a sindaco in una lista civica lo scorso anno con le elezioni amministrative e volevo intervenire proprio per raccontare un pochettino dal di dentro, oltre all'assessore Monteverdi, e dire quello che effettivamente a Parma abbiamo visto capitare in pochi mesi, essere balzati agli onori della cronaca per questo fatto di ieri e per la prostituta nigeriana emessa nella cella dei vigili urbani e fotografata, ha fatto il giro del mondo. Sì. Ecco, però anche lì mi risulta per esempio che c'è stata un'inchiesta e non ci sono indagati, cioè che è finita un po'... Noi avevamo esatto. avuto anche nella Zanzara, sì. con Cruciani, colui che aveva fatto la foto che aveva un po' sminuito, a dire ma no, dormiva e si è addormentata e caduta, gli ho fatto una foto. Poi c'è da capire perché uno che fa una foto del genere la fa girare in tutto il mondo, ecco, questo forse è da stupirsi. Ecco. Insomma, vediamo, no, ecco, è che perché in esibire questa cosa, ecco, però. Ecco. È che in realtà la situazione in questi ultimi mesi ha visto prendere delle decisioni da parte del sindaco Vignali in merito a una città che peraltro sta amministrando da una decina d'anni con la sua coalizione, quindi delle due l'una: se vogliamo gli elicotteri che sorvolino la città come è stato chiesto da Vignali in questi giorni, cani poliziotto, se vogliamo emettiamo ordinanze, no? E se vogliamo la carta della sicurezza a Parma che è stata firmata col ministro Maroni, se emettiamo 7 ordinanze che vanno dalla pipì sui muri, dalla multa per la pipì sui muri alle cicche buttate in terra, sono 300 euro a Parma. Ecco, di quale città stiamo parlando? Perché questa è la domanda che vorrei rivolgere via etere al nostro sindaco. Sì. Parliamo di una città che è diventata il Bronx, e allora vuol dire che in 10 anni chi l'ha amministrata non si è reso conto. Però di quello che l'assessore capitava. Monteverdi, prima ai nostri microfoni, ha detto, non so se l'hai ascoltato, come premessa, proprio, non c'entra nulla la questione della città di Parma, la carta, le ordinanze, il decreto Maroni, questa è la sua versione. Beh, certo, questa è la sua versione, chiaramente. Lei invece la pensa alla maniera opposta. Ecco, io ritengo invece che la pressione su questo genere di situazioni, la pressione mediatica e tutto quello che avviene dietro abbia la sua rilevanza anche su quelli che sono i dipendenti del Comune di Parma, che sono il corpo dei vigili urbani. Non dimentichiamo che questo è un corpo che non è addestrato per questo genere di interventi, come dicevano bene prima alcuni altri che sono intervenuti. Quindi oggi la domanda da porsi è: se Parma è la cittadina tranquilla, abbiamo veramente bisogno di un elicottero e di intervenire in questo modo su un ragazzo che, peraltro, credo lo abbiate già detto, entrava addirittura a far parte dei volontari di una comunità importantissima come Betania. Quindi sì, ci sono proprio le due versioni davvero contrastanti. Da una parte all'inizio si è detto faceva il palo per un pusher, dall'altra parte è venuto fuori addirittura che sta per fare il volontario in una comunità di recupero antidroga. Lui dice: sono scappato perché vedevo queste due persone in borghese che mi tampinavano e mi seguivano, e dall'altra parte hanno detto: beh, siamo in borghese ma ci siamo manifestati, lui è scappato. Insomma, a questo proposito voglio salutare Luca Pelagatti, che è cronista della Gazzetta di Parma, che sta seguendo questa vicenda. Buongiorno Luca. Buongiorno. Allora, innanzitutto aiutaci a capire, perché ovviamente vivendo il polso della situazione, ieri tra l'altro quando ci siamo parlati tu hai detto: guarda, nell'ultimo anno, credo, ma correggimi se le cifre sono queste, abbiamo avuto a Parma, credo, 6 delitti in un anno. Ed è correggo, ci sono stati 6 delitti 2 anni fa. Il famoso annus horribilis di Parma. Annus horribilis, 6 delitti, ve lo ricorderete per chissà quanti decenni. Sì, perché Parma, siamo seri, Parma è una città molto tranquilla. Non siamo abituati a essere sotto l'occhio dei riflettori per problemi legati alla cronaca nera. Quando è successo, ricordiamo tutti il caso di Tommy, eravamo veramente sconvolti. In questo caso ovviamente la situazione è meno grave, però siamo comunque colpiti, perché questa storia ha creato un certo allarme. Parlo della storia di Emanuele, ovviamente. Certo. Con tutti i dovuti, con tutte cautele, perché questa storia deve essere ancora chiarita, evidentemente. Questo sicuramente. E ti chiedo, ci sono indagati oppure no? C'è arrivato una mail o un sms a dire: ma chiedete a qualcuno, perché pare che uno degli agenti sia indagato per rissa. Dunque, allora, a ieri sera non c'erano indagati, nel senso che il PM che sta seguendo l'indagine non aveva ancora emesso nessuna comunicazione in questo senso. E infatti senso. Questo è quello che anche noi, esatto, in GR24 diciamo. Quindi al momento, e questa mattina è successo qualcosa? Esatto. No. No, al momento, per il momento non ci sono novità. Quella comunicazione che riguarderebbe uno degli agenti è ancora da confermare, ma si tratterebbe di un caso che non riguarda assolutamente la vicenda di Emanuele. Sarebbe un'indagine che riguarda un'altra situazione accaduta tempo fa e sulla quale si dovrebbe tra l'altro arrivare presto a una sentenza, quindi non ha nessun legame con la vicenda di Emanuele. Non c'entra con Emanuele. Senatore Saltamartini, il clima della richiesta di maggiore sicurezza, diceva prima Manconi, secondo lei non può portare a queste situazioni, fermo restando che, come si è detto e come ha detto anche Manconi, non si può da qui trarre delle conclusioni assolute, cioè dire Parma è razzista, Milano è razzista, qui siamo razzisti, il mondo è razzista, questo no, sarebbe qualunquismo. Però lei che risponde? Che non è una domanda generica, voglio dire, in Italia ogni anno sono denunciati 3 milioni di reati, quindi 3 milioni di reati ogni anno, 8 milioni di processi in piedi, c'è un discorso del diritto alla sicurezza che va garantito. Poi naturalmente nel garantire questo diritto bisogna evitare che ci possano essere abusi da parte delle forze dell'ordine, ma credo, ecco, che tutti possano essere assolutamente tranquilli e certi che in Italia, lo ripeto, c'è una giurisdizione, una magistratura molto efficiente che valuterà questi fatti con la massima penetrazione possibile dal punto di vista, sì, sia giuridico che etico o sociale. Quindi io credo che questi allarmismi in realtà molto spesso finiscono per creare dei casi politici o giornalistici, ma in fondo credo che tutti possano valutarlo, anche dai sondaggi che si fanno sulle forze dell'ordine che continua ad essere in testa agli italiani, addirittura prima della Chiesa Cattolica. Voglio dire, sono istituzioni ancora sane, sanissime, e dobbiamo riporre nell'attività e nell'operato delle forze dell'ordine sempre la massima attenzione e la massima fiducia. Ad un ascoltatore, Francesco da Torino, buongiorno. Pronto? Dica, Francesco. Buongiorno. Dica, è in linea. Ah, grazie, non me ne accorgevo. Ma io volevo, dato che sono abbastanza a contatto con la polizia municipale, i vigili urbani, spendere una parola a favore della loro attività, perché a me sembra di poter dire che, pur non essendo, almeno così mi pare, inquadrati tra le forze dell'ordine a pieno titolo, quasi come se fosse di serie B, poi di fatto, quando ci sono dei problemi, vuoi perché i carabinieri sono sempre sotto organico, la polizia ancora di più, scaricano molto sugli agenti di polizia municipali, perché ovviamente, come diceva giustamente l'agente che ha parlato, di cui ho sentito, sì, l'intervento, conoscono il territorio, conoscono soprattutto le persone, molto di più magari del poliziotto, del carabiniere giovane appena mandato nella tassazione che non conosce niente nessuno. Mm-hmm. Quindi di diritto non sono riconosciute probabilmente a pieno titolo, poi di fatto vengono usate per un sacco di cose. Io vorrei dire, conoscendo abbastanza, sono nelle pubbliche amministrazioni, quindi conosco, sì, queste questioni. Spezza una lancia, insomma, per loro, Francesco. Certamente. Sì, no, io devo, siccome devo chiudere, vado di corsa, solo per Luca Pelagatti l'ultima domanda. Gli agenti erano in borghese, quelli dell'intervento, tu ce l'ho confermato? Gli agenti erano in borghese. Perché sono di questo nucleo pronto intervento. Sì. Tu che segui la vicenda, insomma, sono due verità talmente così contrastanti che ti sei fatto anche tu un'idea, ovviamente. Ma un'idea sì. Ovviamente credo che a questo punto bisognerà chiarire due o tre punti. L'ora dell'arrivo del ragazzo nel parco, se gli agenti si sono qualificati come dicono, una perizia calligrafica sulla busta, sono questi due o tre gli elementi che serviranno, ovviamente se capire se il ragazzo telefonava, come è stato detto, sì, sono questi due o tre elementi che serviranno per chiarire, come dire, per dare dei punti fermi in questa vicenda. Sulla base di questi punti fermi si potrà poi, credo, capire stabilire se quello che è successo, sta dicendo la verità oppure o sta raccontando una sua verità parziale. Allora, grazie a tutti davvero per essere intervenuti, Elisabetta Fusconi in redazione con Alessandro Marco Tulli e Giorgio Matte in regia. Con Viva Voce ci ritroviamo domattina.